certezza, so che sei sempre all'altezza. Quando fai quei mille progetti e già sai che sono perfetti. Lotti per le tue convinzioni senza mai esitazioni, perché tu vuoi cambiare le cose, renderle meravigliose. Forse non sai quanta forza hai, solo crescendo lo scoprirai. Ma con il tuo coraggio tutto quel che sogni lo otterrai. Il tuo destino appartiene a te, vivi ogni giorno mostrando che puoi ottenere tutto. Per chi vola alto la paura non c'è. Paura non c'è. Scoprirai ogni secondo come puoi cambiare il tuo mondo senza mai timore d'errore. Basta che tu segui il tuo cuore. Dentro te qualcosa ti dice che sarai davvero felice. Solo se fai ciò che ti piace e tu puoi, perché sei capace. Forse non sai quanta forza hai, solo crescendo lo scoprirai. Ma con il tuo coraggio tutto quel che sogni lo otterrai. Il tuo destino appartiene a te, vivi ogni giorno mostrando che puoi ottenere tutto. Per chi vola alto la paura non c'è. Sogni lo otterrai. Il tuo destino appartiene a te, vivi ogni giorno mostrando che puoi ottenere tutto. Per chi vola alto la paura non c'è. Sei una vincente. Per chi vola alto la paura non c'è. Forse non sai quanta forza. Crescendo scoprirai, corri dietro ai sogni e non arrenderti mai.